Buonasera. Allora, direi questa sera magari vediamo un po' velocemente un primo abbozzo del modello delle piante, di rendere le piante, e poi continuiamo con le query. Ciao. E poi continuiamo con le query. Allora, il nostro esempio diceva che si voleva parlare della vendita all'ingrosso e al dettaglio di piante, che c'è un refuso, sono dimenticate lì, all'ingrosso. Vendita di piante. Si vuole rappresentare una base dati per la gestione della vendita di piante, tenendo conto delle seguenti informazioni. Allora, sono trattate diverse specie di piante, quindi senza dubbio una delle tabelle era piante. Per ciascuna specie sono noti il nome in latino, il nome comune, codice univico attraverso cui la specie viene identificata. Per ciascuna specie inoltre è noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento e se sia una specie esotica o no. Adesso qualcosina forse l'avevo tagliato, non mi ricordo esattamente. Esatto, l'esotica no. Le piante possono essere verdi oppure fiorite. Nel caso di specie di piante fiorite sono note tutte le colorazioni in cui ciascuna specie è disponibile. Allora, a vederla così, a me la prima cosa che verrebbe da pensare è dire, ok, prendo la tabella piante, siccome qua mi dice che ha un codice univoco attraverso la cui la specie viene identificata, vuol dire che ci sarà un codice loro. Quindi ci sarà ID codice pianta, ID codice pianta, poi, sempre all'interno della stessa, ci sarà il nome latino, il nome comune, il nome se è da giardino o se è da appartamento, sempre all'interno della stessa tabella, perché in realtà è la singola pianta che è da giardino o da appartamento, non è che può essere sia l'uno che l'altro, almeno da quello che dice qua. Poi magari se nella realtà è diversamente, a noi non interessa perché questo dice preciso. Sì, tipo pianta, da giardino o da appartamento, eventualmente con una tabella di raccordo che metta o da giardino. Va bene, va bene. Vabbè, comunque l'importante è che il campo, che possiamo chiamarlo tipo di pianta, sia all'interno di questa tabella. E quindi verdi o fiorite, nel caso di specie fiorite sono note tutte le colorazioni. Quindi a questo punto io metterei un colori, dove possiamo chiamare ID colore, che sarà un contatore, dove ci sarà il nome colore con ID cod pianta. Una a molti, e su questo non penso che ci siano. Ma non basta fare un score con i colori, con l'unico campo dei colori. E no, perché non basta fare un underscore, quindi una tabella di raccordo? Perché se voi me la fate tabella di raccordo, è chiara l'obiezione? Cioè, la signora mi dice, ma non puoi chiamarla zero colori e usarla come tabella di raccordo? Una tabella di raccordo. Una tabella di raccordo, che tu giustamente non hai visto perché l'abbiamo fatto nelle prime lezioni. Relazionata Sì. Sì, ma al di là dell'uno molti, molti a uno, quindi qua ci sarà poi ID colore, ok? Con una relazione 1 a molti. Perché non va bene? Eh? Perché non va bene? Buonasera signora. Ho dimenticato un quaderno, non l'avevo ricordato. Dove era? Se no, dentro una busta di nylon, una copertina non mi cade. Non arriva perché potrebbe essere. Dove stava? Dove era seduta? Io l'ho seduta. Scusate. Opala. Meno male. Quindi dicevamo, qual è il problema di fare una relazione di questo tipo? Perché solo variano soltanto le relazioni e quindi dovrebbe avere solo una tabella di. Vabbè, ma poco importa, voglio dire, uno potrebbe anche. Quindi? Quindi? Qual è il problema? Non è legata la ridondanza dei campi. Su? Mi faccia felice. 50-50. Sulle piante. Bravissimo. E su questo non si discute. Nel senso che c'è ID codice pianta, che sarà il TK01, il nome Gardenia, il tipo fiorito rosso, ID TK01, giardino, Gardenia, fiorito blu, d'accordo? Ma non sui colori. Su tutto il resto, su tutto il resto. Quindi, attenzione signori, lo so che magari per uno va bene così anziché cos'ha, ma dovete ricordarvi sempre tutti i vincoli che ci sono. Non avere circoli chiusi nelle relazioni, non avere la ridondanza dei campi, che è la base primaria di tutto il discorso, che ogni tabella deve avere delle chiavi univoche, cioè ci sono tutta una serie di vincoli che bisogna sempre rispettare. Questa relazione qua, lo so anch'io che farebbe più piacere farla così, perché mi tolgo dalle scatole una tabella, che sarebbe solo una tabellina di raccordo, punto e basta. Il problema è che poi vado a fare e in generare una ridondanza di campi che non è assolutamente. No, però io cambiamo il codice del prodotto, perché per esempio una pianta si chiama. Ma metta anche, che lì non c'è scritto, che uno voglia andare a cambiare il codice prodotto in base al colore, ma comunque. Rimane il fatto che lei mi deve andare a ripetere il nome in latino, il nome univoco, la specie identificata, se è da giardino o da appartamento e se è una pianta esotica o meno. Comunque 5 campi me la giri come vuole, ma non ci sta. È ridondanza di dati. E attenzione, anche se l'esercizio mi avesse detto soltanto un campo, quindi uno potrebbe dire, ah ma non c'è la ridondanza. Occhio, perché se domani i campi aumentano ho ridondanza. Quindi bisogna pensarci prima, non dopo, quando la ridondanza per qualsiasi motivo viene fuori. No, però la tabella colori servirebbe, secondo me, come capisco io, soltanto per evitare che l'utente gli metta il nome del colore, per evitare gli errori di input. Perché la tabella è soltanto l'informazione del colore alla pianta. No. Fatta così, sì. Ma il problema è che fatto così. Ma come servirebbe quella? Se ci fosse stato un tempo per mettere il colore per ogni tipo, cioè in fase di caricamento di dati, doveva esserci un campo che dava l'informazione del colore. In questo caso va a scarica di colore. E nei colori c'è soltanto l'informazione del nome del colore, in quella tabella lì, e e c'è soltanto la sua chiave privata, basta, c'è soltanto informazioni di particolari. In fase di query, per esempio, per rilevare i dati, non ci dà delle indicazioni particolari, se non quella di implementare la tabella più piante per dare informazioni colori. Quindi, come capisco io, sarebbe soltanto per evitare che l'utente, in fase di input, scriva il colore, mentre invece praticamente lo va a pescare, lo potrebbe pescare attraverso una selezione, una casella di selezione che ti dà il codice. Devo essere sincero. Devo essere sincero. Sto facendo molta fatica a seguire il filo del discorso. Ma indipendentemente da tutti i discorsi, il concetto fondamentale è che se si imposta la relazione così c'è ridondanza di campi su piante. Quindi la impostazione. Puoi fare, io imposto una tabella come clienti, dato che c'è una relazione molto molti tra clienti e piante, da lì creare una tabella associativa. Ci può stare. Adesso che andiamo avanti con l'esercizio, magari cioè, salta fuori. Non vedo più perché. Sì, ma vi dico, io l'esercizio non l'ho visto prima, per cui lo sto rileggendo adesso e lo sto andando a vedere. Ci può stare che magari con i clienti effettivamente venga fuori questa cosa, certo. Allora lì se ci sono delle ridondanze anche sulla società. Certo, adesso lo vediamo. Assolutamente, sì. Sì. Anche perché metti che comunque. Ma metti anche che tu dica sono disposto ad accettare quelle 30 colonne di colori, che è già comunque impensabile. Domani ti esce il 31esimo colore, perché c'è lo stilista che si inventa il colore nuovo, ti devi andare a modificare la struttura della tabella, la struttura delle query, la struttura delle maschere, la struttura... Non esci via. Quindi assolutamente no. Ok, andiamo avanti. Hai più colori. Però anche per ogni colore hai più piante. Sì, quindi? La relazione sarebbe molti a molti. Ma il problema fondamentale è che di solito la molti a molti si fa nel momento in cui ho almeno un 2 o 3 campi da una parte e un 2 o 3 campi dall'altra. Qua la molti a molti, cioè vorrebbe dire che nella tabella colore metteresti solo i di colore e il colore. Quindi la sceglieresti così proprio per evitare la ridondanza. Assolutamente. A meno che, adesso venendo fuori con il discorso dei clienti, non ci sia... Sì. Cioè non è sbagliato il tuo ragionamento. Tu dici, per ogni pianta ci sono tanti colori, per ogni colore ci sono tante piante, ci sono i presupposti per fare una molti a molti. Il fatto è che però la molti a molti presuppone che da tutte e due le parti ci siano almeno 3-4 campi. Qua ce ne sono due. E dall'altra parte, se no, che cosa metti nella tabella centrale? Ok. Quello che c'è lì, quindi nome in latino, nome normale, se d'appartamento da giardino, se esotica o meno, se verde o fiorita, e basta. Due campi, appartamento e fiorita, appartamento e giardino. No, un campo solo, sì, che chiami tipo pianta e lo dici o d'appartamento o fiorito. Con una meno tendina, sì. Ok, clienti, i clienti, sono identificati attraverso un codice cliente, sono costituiti da privati e da rivendite, per ciascun privato sono noti il codice fiscale, nome e indirizzo, mentre per ogni rivendita sono noti la partita IVA, il nome e l'indirizzo della rivendita. Però io avevo detto anche il codice fiscale, anche per l'azienda, vero? Per i privati il codice fiscale... No, il codice fiscale è tutto quello dei fornitori. Dai fornitori. I fornitori sono codice fiscale. Vabbè, Allora, qua come l'avete impostata? Esatto, allora qua sostanzialmente è l'esercizio stesso che ci toglie dalle gabole, perché ci dice che i clienti sono identificati da un codice, quindi già ci ha tolto dalle gabole perché ci sta suggerendo che la chiave primaria è un codice ad hoc, quindi un generico ID cliente che non di cui non specifica come questo codice, ma comunque è un codice interno del database. No, assolutamente, assolutamente. Io farei, perché proliferare quelle tabelle? La tabella io la farei rimanere una sola, che è la tabella cliente, dove si mette il codice fiscale, che lo si va ad evidenziare se è un privato. Esatto. Quindi un codice fiscale, una partita IVA, e poi, poi il nome, l'indirizzo, quindi nome e indirizzo, ed eventualmente, questo mi può piacere, un campettino in più dove gli si va a specificare se è un privato o una rivendita. Ma tu lo sai ben meglio di me che le società unipersonali hanno soltanto il codice fiscale. Che però la partita IVA è uguale al codice fiscale. Vabbè, ok. Supponiamo che la ditta sia di 6 anni fa. A partita IVA. E sono fiscali. Le aziende sono tutte identificate con partita IVA, che può essere uguale al codice fiscale. Il codice fiscale per le ditte fiscali dipende da anni fa. Sono la ditta individuale. Però voglio dire. I casi in cui la partita IVA è uguale al codice fiscale e sia il non il numerico, ma l'alfanumerico? Non è possibile. Come? Vabbè. Ok, allora, mettendoci nelle mani di un contabile o di un tesoriere o di un commercialista, ok, decidiamo se mettere sto diavolo di campo o no. I fornitori, adesso poi vediamo come andare ad allineare i clienti. I fornitori, sono identificati attraverso il codice del fornitore. E anche qua quindi ID fornitore. Per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Il fornitore può fornire diverse specie di piante, tuttavia le piante della stessa specie sono acquistate sempre dallo stesso fornitore. Ok, allora quindi c'è l'ID del fornitore e poi tutti gli altri, a questo punto, da cosa si dice lì, sono tutti campi che si vanno ad aggiungere sotto, no? Quindi nome, codice fiscale, indirizzo. Il punto del discorso però sta dopo, cioè il fornitore può fornire diverse specie di piante, ma le piante della stessa specie sono acquistate sempre da uno stesso fornitore. Praticamente un altro non può fornire quelle piante che mi fornisce quel fornitore. Esattamente. Allora, la settimana scorsa, ci eravamo fermati sotto con un paio di voi per... puntualizzare questo punto, che è una ripetizione, ma insomma mi siamo capiti. Cioè, il concetto è che se io sono Vittorio, fornitore di Carla, e Vanni è fornitore di Carla, Se io a Carla fornisco le rose, non gliele può fornire anche Vanni. E viceversa, se Vanni gli fornisce i gerani, non glieli posso fornire anche io. Ma Vittorio gli può fornire le rose e i pini, e Vanni gli può fornire i gerani e gli abeti. D'accordo? Quindi, che relazione c'è tra fornitori e rivendita? Uno a molti, ma non molti a molti. Mi seguite? Perché io posso fornire più piante al rivenditore, ma la stessa pianta dal rivenditore non può essere fornita da più fornitori. Quindi solo uno a molti, non è molti a molti. Sì, hanno scritto quel per specificare il discorso. Quindi la relazione tra il fornitore, quindi il fornitore, diciamo così, fornisce più piante, adesso poi lo andiamo a... Comunque è chiaro il discorso? Poi si vuole tenere traccia di tutti gli acquisti eseguiti da ciascun cliente. Un acquisto effettuato in una data specifica è relativo ad una certa quantità di piante. Ma uno va in un vivaio, si compra tre piantine diverse con un tot di quantità. Quindi ci sarà acquisto. Adesso vediamo cosa mettere come chiave primaria. Chiamiamolo acquisto. Poi vediamo come tassellarlo in tutto il discorso. Sì, sì, sì, sì. Va bene. È giusto, signori. È giusto. Giustamente la signora dice, ma dato che il database è quello di un'azienda che rivende, non si può parlare di acquisto, perché acquisto è dalla parte del cliente, ma di vendita perché è dalla parte dell'azienda. Quindi, si vuole tenere traccia di tutti gli acquisti eseguiti dal cliente, quindi delle vendite che noi facciamo. Ok? Un acquisto è effettuato in una data specificata, quindi ci sarà data. Lasciate uno spazio perché adesso poi vediamo che chiave primaria a mettere lì. Ed è relativo ad una certa quantità di piante. Quindi quantità di piante. Ci metto un punto interrogativo perché poi lì bisogna capire. Quantità e qualità. Il listino prezzi di cui si vuole tenere traccia, in cui si vuole tenere traccia dei prezzi assunti nel tempo da ciascuna pianta. Quindi ci sarà un listino ID prezzo poi data inizio, data fine poi il prezzo ovviamente ID prezzo, che adesso cerchiamo di capire cosa possa essere. Data inizio, data fine. Ovviamente il prezzo. E poi bisogna legarlo in qualche modo alle piante. Bisogna legarlo in qualche modo alle piante. Per esempio, non è possibile dare un ID come data? Perché mi chiede in Ma poi come no? Non è possibile, perché se tu un giorno cambi i prezzi di 5 specie, dovresti avere la stessa data, che non ha senso. Giusto? E poi in qualche modo devo mettere la pianta a cui si riferisce. Siamo tutti d'accordo? Non mi sembra ci fosse altro, no? Data inizio e data fine mi serve per sottolineare da quando è iniziato e da quando è finito il prezzo, perché lui qua mi dice che il listino prezzi si vuole tenere traccia dei prezzi assunti nel tempo. Perché se lui non mi dicesse questa cosa qua, io semplicemente cambierei di volta a volta in prezzo. E tanti saluti. E no? Ma allora, diciamo così, qua è abbastanza indifferente, tanto il punto della questione non è qui, su mettere un campo o mettere due campi, il punto della questione arriverà fra un po', da come la vedo io. Quindi o si sceglie di fare data inizio e data fine, personalmente io lo preferisco come metodo, ma per un motivo banale, perché in questa maniera per ogni prezzo si può vedere quanto è stato in carica. Quando si fa una query si va a fare la differenza tra la data di inizio e la data di fine e si vede quanto è rimasto in carica. Ma un altro metodo potrebbe essere quello di andare a vedere, di andare a mettere una semplice data. Chiaro che nel momento in cui metto un prezzo nuovo per la stessa pianta con una data successiva, va da sé che una pianta finisce in un mese. Diciamo che sono due metodi alternativi. Però, a quel punto, se vogliamo iniziare a fare le pulci, potremmo anche dire, ma se io per un periodo di tempo una determinata pianta non la vendo più? Se io metto data inizio e data fine, so che quella pianta in quel momento non la sto vendendo. Se io metto sempre solo una data, per me la singola pianta la sto continuando a vendere. È un cavillo. Però diciamo che secondo me mettere data inizio e data fine potrebbe rispondere anche a questa esigenza qua, cioè capire quando io una determinata... Cosa si muove o cosa non si muove. Esattamente. No, non il fatto che la merce entra e esca, ma il fatto che io domani decido che i gerani non li vendo più. A quel punto basterebbe mettere nel listino il prezzo del geranio, la data fine valorizzata, e a quel punto io il geranio, non avendoci poi messo un altro prezzo, so che non lo sto più vendendo. Voglio sapere in quel periodo, quando vendevo il gerano, a che prezzo lo vendevo. Esatto. Però mi rendo conto, ripeto, che è già un cavillo, nel senso, no? Però ci può stare. Sì, anche perché quello ti permette anche di dire, indipendentemente dal fatto che tu magari in magazzino abbia o non abbia ancora dei gerani, o nel magazzino o nel vivaio abbia o non abbia dei gerani, io decido per qualche motivo di stoppare la vendita del geranio, metto una data fine e il geranio non lo vendo più, anche se nel vivaio dei gerani ne ho ancora. Ok, bisogna capire adesso come relazionare queste tabelle. Però mi ricordo che se fosse che avessi detto di tenere traccia di tutti gli acquisti. Perché io sono quella prevista. No, se c'è scritto l'ho detto. Non l'hai detto. Non l'ho detto? Vabbè, complichiamo il problema. Allora, insomma, poco importa. Veramente poco importa. Cerchiamo di capire come risolvere le relazioni fra tutti i discorsi. Dunque, innanzitutto qua quello che sta abbastanza al centro di tutto il discorso è la pianta. Quindi verosimilmente la maggior parte delle relazioni saranno molte a molti. Allora, abbiamo già capito una cosa, che per ogni fornitore ci sono tante piante. Ma non è vero il contrario. Per ogni pianta ci sono tanti colori. Può essere anche vero il contrario, ma abbiamo detto, per ragioni di praticità, non stiamo a fare una tabella singola. Quindi io la segno semplicemente così. Per ogni cliente ci sono tanti fornitori? Ci sono tante piante, non ci sono tanti fornitori. Quindi per ogni cliente ci possono essere tante piante. Per ogni pianta ci sono tanti clienti? Sì. Per ogni cliente ci sono tante vendite? Ci possono essere tante vendite. Per ogni vendita ci sono tanti clienti? Per ogni vendita ci possono essere... la singola vendita è vendita. Ok. Poi, a questo punto c'è da infilare il listino da qualche parte. Il listino, come lo relaziono con gli altri? Con le vendite, direi. Il listino... Per ogni tipo di pianta c'è un tipo di... C'è un prezzo. C'è un tipo di prezzo. Talvolta mi può cambiare sul listino prezzi, sulle piante, ma nel listino invece mi arriva traccia. E lì il problema. Allora, iniziamo a sviluppare questo, perché non è banale come discorso. Allora, abbiamo detto piante, colori, fornitore, pianta, cliente, pianta, no, scusate, questo qua è colore e questo qua è cliente, perché per ogni cliente ci sono tante piante, per ogni pianta ci sono tanti clienti, e poi cliente, vendita. Esatto. Allora, diciamo che qua una possibile soluzione, da come la vedo io, è dire vendite la infilo in mezzo a cliente e piante. Perché, precisamente, perché siccome io qua ho una molti a molti, devo avere un qualcosa che ci sta in mezzo. Cos'è che sta in mezzo tra il cliente e la pianta? La vendita. E quindi così tutto torna. Quindi, a questo punto, la mia relazione molti a molti tra cliente e piante, io la identifico con cliente, per ogni cliente ci sono tante vendite, per ogni pianta ci sono tante vendite. Ed ecco che è esplicito da molti a molti. Sei d'accordo? Non solo sulla tabella colori che non sono... Perché? Preferivo, cioè, usarlo come campo, la tabella colori. Ma come campo? È quello che dicevamo prima. Hai ridondanza poi sulla tabella piante. Ma poi facciamo una tabella associativa tra piante e... Cos'è? No, ho fatto una cosa che adesso non... Ah, tu dici... Ma oddio, ci può stare la relazione così. È questo che intendi tu? Ci può stare. Allora, pensiamoci un secondo, chiaramente il colore nella tabella pianta non ci deve andare comunque, preciso. Allora, ogni fornitore fornisce tante piante, questo qua va tutto bene, ok? Io lo trovo un po' forzato comunque, perché comunque a livello proprio logico, io non è che associo il colore di una pianta ad una vendita, lo trovo un po' forzato, però ci può stare, nel senso che lui dice la mia pianta, il geranio è geranio, la rosa è rosa. Nel momento in cui entra il cliente in vivaio, mi compra 10 rose, quelle 10 rose le vuole di colore giallo. Ci può stare. Però io riesco a vedere come magazzino piante che colorazioni ho? Però non è neanche banale. Brava, ha ragione Carla. No, ha ragione Carla. Il problema fondamentale in questo caso qua è che nel momento in cui tu andare a fare una query, voglio vedere tutti i colori di rosa che hai in magazzino o nel vivaio, dove diavolo è, se tu lo associ il colore alle vendite, riesci solo a capire quali colori hai venduto, ma non quali colori di piante hai. Brava Carla. Quindi sì. E comunque anche prima mi sembrava forzato, perché in realtà il colore è una proprietà della pianta, non è una proprietà della vendita. Diciamo che un po' tirato per i capelli ci poteva stare, ma è corretto quello che dice Carla. Quindi sicuramente il colore deve essere uno a molti con le piante. Ora, rimane il listino, o preziario, o come lo vogliamo chiamare. Perché il problema del listino, abbiamo detto, c'è un prezzo, questo prezzo nasce, muore, eccetera, eccetera, è legato alla pianta, quindi per ogni pianta ci possono essere più prezzi, no? 1-1 no. E no, perché non tieni traccia, se no. Se tu mi fai 1-1, vuol dire che l'ID della pianta è chiave primaria sia della tabella pianta sia della tabella listino. Ma se è chiave primaria della tabella listino, vuol dire che quando tu cambi prezzo... Il codice rimane uguale. Ma non può rimanere uguale se è la chiave primaria. Se io cambio prezzo... Se... La tua, scusami Vanni, se tu fai listino con ID pianta come chiave primaria della pianta, con data inizio, data fine e prezzo, la mia pianta numero 1, che è il geranio, che è l'1-1-2001 è data fine il 2/2/2002 e costa 10 euro, domani che mi cambia prezzo, la pianta 1, giusto? Ma non puoi, perché è chiave primaria. Non puoi rimettere l'1. Ma indipendentemente che sia un contatore, che sia un codice, che sia quello che è. Non puoi rimetterlo perché è chiave primaria. Giusto, Vanni? Sei d'accordo che non può essere una 1-1? Preciso. E se tu dicessi, vabbè, non lo metto qui, ma vado a cambiare questi dati, non tieni più traccia. Ok. Quindi, per ogni prezzo, per ogni pianta ci sono più prezzi, ma non è vero che più, per ogni prezzo ci sono più piante. Sì, però voglio dire, è un caso sporadico, cioè deve essere lo stesso prezzo che inizia alla stessa data e finisce alla stessa data. Cioè, diciamo che è una coincidenza. Però dovendo avere lo storico, è vero che per una pianta io ho più prezzi, perché ho iniziato a venderla con 5, poi la venderò a 6 e poi la venderò a 7, per cui ho più prezzi. Che è quello che sto dicendo. Sì. Quindi, per ogni pianta ci sono più prezzi. Che è sempre lo stesso codice, esatto. Però a questo punto ci sarà ID prezzo, poi data inizio, data fine, euro, e poi il campo collegato ID pianta. Ma a questo punto la chiave primaria non è ID pianta, ma è ID prezzo. Che va a finire sulla tabella pianta. Che va a finire la tabella... Ci sarà ID prezzo, che è la chiave primaria, mentre qua ci sarà ID pianta, che è la chiave primaria, poi data di inizio, data di fine, euri, e poi ci sarà ID pianta. Ma questa qua è una relazione 1 a molti. D'accordo. Praticamente è distinto. Sì. Problema. Ma allora, fino a qua ci siamo? Siamo tutti ragionevolmente d'accordo con questa soluzione? Secondo me è la migliore. Cioè, avendolo visto così, poi bisogna provare a svilupparlo, ma ragionevolmente mi sembra la migliore. C'è solo un dettaglino che io metterei a punto. E vi vorrei far riflettere su questo dettaglio, cioè per ogni pianta ci sono più prezzi, quindi quando l'utente va a vendere la pianta, cioè l'impiegato, il venditore, va, gli entra il cliente e gli vende la pianta, chi gli evita, anche per errore, di scegliere un prezzo vecchio. Perché il fatto è, essendo una relazione uno a molti, c'è l'integrità referenziale, per cui sicuramente se io gli sto vendendo un geranio non gli posso fare il prezzo di un abete, perché c'è l'integrità referenziale che mi blocca questo discorso. E almeno questo, su quello sono contento. Ok? Ma chi evita al mio venditore, e lo ripeto, anche per errore, di andare a scegliere un prezzo vecchio che non è più quello attuale? La data. Giustissimo. Però il mio problema è che magari quello è al telefono, sta facendo così al cane del cliente che sta mordendo, vede gli uccellini passare, gli passa un elicottero del figlio del cliente che ha l'elicottero telecomandato, sbaglia la data e mette quella sbagliato. Può capitare. Vi sto chiedendo, chi glielo evita questo errore? Che è tutto questo discorso, ma se c'è l'elicotterino, il cagnolino, il cliente, il bim bom bam bam, chi glielo evita? Siamo d'accordo tutti che se la data non è, cioè, l'ho capito, andiamo avanti. Chi glielo evita di fare l'errore? Ho capito, ma cioè, non è così banale, cioè bisognerebbe poi fare della programmazione Visual Basic nella quale noi non entriamo, perché ci vorrebbe poi una routine che vada a controllare la data della vendita, confrontarla con le due date, non è assolutamente banale. Però c'è un modo molto più semplice in realtà. No, già mai, perché sennò farei un circolo chiuso. Non ho capito. Se mettiamo i prezzi con una cartella combinata, sì. Con l'azienda non si possono scegliere tutta la serie di prezzi. Ma tutta la serie di prezzi vuol dire che prende il prezzo attuale e i prezzi vecchi. Mettendo due aziende andando a prendere dall'ultima data, data fine. Dall'ultima data. La relazione sarebbe meglio farla non con direttamente la tabella prezzi, ma con una query prezzi che di tutti i prezzi mi vada a prendere quello attualmente in auge. Sì, allora il concetto è, io ho prezzi, dove c'è ID, prezzo, data inizio, data fine, euro e ID pianta. Avrò il prezzo 1, 2, 3, data inizio quella che è, vogliamo che questi siano i tre prezzi della pianta numero 1. Quindi la pianta numero 1 inizia il 1 gennaio del 2001 e finisce il 1 febbraio del 2001 che costava 10 euro, poi passa il 1 febbraio del 2001 al 1 marzo del 2001 che ne costava 15, poi passa il 1 marzo del 2001 che ne costava 20, e non avendo ancora una data di fine, continua a costarne 20. Ora, se voi mi fate un menu a tendina, cioè, me la potete dire come volete, ma il problema fondamentale è che il menu a tendina, siccome la relazione con le piante è questo numerino qua, lui mi va a pescare questi tre valori. E poi è vero tutto che io vado a prendere quello più alto o quello con la data maggiore, ma ripeto, un errore ci può capitare. Allora, come faccio? Invece di relazionarla direttamente con la tabella, faccio una query dove gli dico ID prezzo, data di inizio, data di fine, euro e ID pianta. L'unica certezza che devo avere è che nella query, nella data di fine, gli devo dire is null. Non now. Il problema è che la mia pianta, 1, nel 1 gennaio aveva un prezzo che è finito il 1 febbraio, nel 1 febbraio un altro prezzo che è finito il 1 marzo, nel 1 marzo aveva un prezzo che ancora non è finito, quindi non è valorizzata la data di fine. Sei d'accordo? Ma il fatto che non sia valorizzata vuol dire che è is null. Non ho capito. La relazione è non tra la tabella pianta e la tabella prezzi, ma la tabella pianta e la query prezzi. E la query prezzi. Che è un dettaglio, ma che sostanzialmente mi toglie dalle scatole tutti i prezzi vecchi, ma mi permette anche di tenere la storicizzazione dei prezzi stessi. E ti evita il problemino di avere più prezzi per la stessa pianta, che ripeto, è ovvio che se, va bene tutte le considerazioni che stiamo facendo, ma magari un errore ci può capitare. Invece in questa maniera qua non ci capita più. D'accordo? Quindi questa relazione poi tenetevela per la prossima volta. Allora, detto questo, signori, io direi, ritorniamo a vedere le query. Quindi, diciamo che questo è l'ultimo esercizietto, poi magari più avanti, se ci rimarrà ancora tempo, ne faremo altri. Però, io adesso, a questo punto, ho introdotto questi due, tre esercizi, uno dell'ASL, l'altro della rivendita, vabbè, l'ASL lo lasciamo perdere, per carità del signore. Questo qua della rivendita, lo riprendiamo e sviluppiamo questo discorso, ok? Con tutti i concetti visti, le relazioni, eccetera, eccetera. Adesso andiamo avanti un pochino con la teoria e poi, di lezione in lezione, cerchiamo di sviluppare questo modello che abbiamo visto. Siete d'accordo? Benissimo. Poi Vanni, se gentilmente mi mandi il modellino, solo scrivendo anche solo FP11. Ah, boh. Lusso, ok, quello è già un lusso. Ok, dunque a livello di teoria cosa eravamo arrivati? Alle query? E la clausola di instinct, ok. Benissimo. Allora, a questo punto io direi di andare a vedere delle query di calcolo, ma non tanto le query di calcolo per colonna quanto le query di raggruppamento. Fondamentalmente perché sono un pochino più facili, quindi in questa mezz'oretta riusciamo a vederle. Quindi le query di raggruppamento, chiamiamole così, che poi in realtà vuol dire fare dei calcoli sulla colonna intera. Su una colonna intera. Esatto, quello lì. Perché tu raggruppi per anno, per mese e così via dicendo. Manca un passettino, nel senso che tu, se hai una data, devi tirare fuori da quella data l'anno e il mese. E quella poi la faremo nelle query di calcolo per colonna. Però, ammettendo di, dalla data, aver tirato fuori anno e mese, fai una query successivamente di raggruppamento. Ok? Allora, signori, le query di raggruppamento sostanzialmente che cosa fanno? Vanno a fare delle query, dei calcoli, scusate, su un'intera colonna. Allora, facciamo un caso estremamente semplice. Dato che parlavamo prima dei colori, piante, cose del genere, riprendiamo questo caso. Supponiamo di avere il campo colore, il campo prezzo. Ora, non state a farmi le pulci che non si può perché sto facendo un caso semplice. Quindi colore rosso, prezzo 10, colore blu, prezzo 20, colore rosso, prezzo 20, colore verde, prezzo 30, colore blu, prezzo 20. Scusa? Supponiamo che ci siano... Chi se ne frega? Cioè, l'importante è che... è per farvi capire il concetto. È completamente staccato, è dall'esempio delle piante. Nel caso di Vanni, per esempio, può essere la data delle bollette di cui mi parlava nell'ora precedente. La data delle bollette ha anno, mese, giorno. Chiaramente ci possono essere più bollette nello stesso anno e nello stesso mese. Allora, le query di raggruppamento sostanzialmente che cosa fanno? Innanzitutto si possono fare o su campi numerici, o su campi letterali soltanto il conteggio. Questo vale per tutto il linguaggio SQL? Sì. Cioè standard? Sì. O parliamo di classi? SQL. Quindi, se si fanno su campi numerici, tipicamente, o su campi letterali soltanto il conteggio. Quali sono le operazioni che possono essere fatte? La somma, la media, il prodotto, il conteggio ed altre, ma le altre diciamo che sono un pochino più la devianza standard, cose del genere, ma sono più di tipo statistico che non altro. Tipicamente quelle che si usano sono tre, che sono somma, media e conteggio. No, è un raggruppamento, eh. Non avrebbe neanche senso andare a fare la divisione di tanti numeri uno sotto l'altro. Esattamente, esattamente. Ripeto, sono dei calcoli che lui fa su un'intera colonna. Ok. Il conteggio sostanzialmente è quello che risponde alle domande quanti sono. Ok? Allora, se io faccio, se io facessi la somma di questi numeri, quindi in una query io andassi a sommare questi numeri, quanto avrei? 2, 4, 6, 7, 100. Ok? Quindi una query che vada a sommare tutta la colonna mi restituirebbe 100. Scrivetelo. Se io facessi una query di raggruppamento che mi somma la colonna prezzo, avrei 100. Scrivetelo bene, cioè se io faccio una query di raggruppamento che mi somma la colonna prezzo, otterrei 100. Se io facessi una query di raggruppamento, scrivetemelo, se facessi invece una query di raggruppamento che mi somma prezzo, ma raggruppa per colore, cosa otterrei? Che è quello che vuoi fare tu con gli anni e con i mesi. Otterrei rosso, blu e verde, rosso 10 e 20, 30, blu 20 e 20, 40. Quindi otterrei quelle che vengono chiamate in Excel delle semisomme, delle somme parziali, non so nemmeno come dire. Posso mettere invece di rosso, verde e blu, secondo me l'anno, non la data. Esattamente, ma quello che ti dicevo prima si può fare, ma dalla data prima devi tirare fuori l'anno e il mese, ma quello lo vedremo poi più avanti. Non puoi mettere la singola data perché sennò vorrebbe dire che ti raggrupperebbe tutte le bollette dell'1 aprile del 2009, del 2 aprile del 2009, ma non è quello che vuoi tu. Tu vuoi il raggruppamento per anno e mese. E anche per giorno. Però lo vediamo più avanti. From colore e prezzo e poi group by colore. Sì. Ok, allora qua in realtà sì, dei numeri ci sono, che sono gli anni e la durata. Ecco, vedete che c'è durata minima, lo vedete? E poi c'era il genere. Ok, io prendo questa tabella. Sì, sì, è la query normale. Non sto aggiungendo niente a quello che sappiamo già. Quindi prendo il genere, prendo la durata minima. Ok? Quindi fino a qua non sto aggiungendo nulla a quello che avevo fatto finora. Ecco, la differenza a questo punto dove sta? Che una volta che io ho inserito i campi nella query, e guardate che nella query dovete mettere meno campi possibili, perché sennò poi lui va a fare dei raggruppamenti. Quindi, scrivetevelo, creo una struttura di query con meno campi possibili. Ripeto, meno campi possibili perché poi su ciascun campo lui va a raggruppare. E schiaccio, intercettando la domanda che sta per arrivare da Vanni, sì, anche nel 2003, il pulsante sulla barra che sarebbe il sigma maiuscolo in greco, il simbolo di sommatoria. E dove andiamo? Beh, il prossimo anno pensavo di fare Excel, perché abbiamo fatto 2 anni di fila Access e pensavo di fare Excel. Non si va alla programmazione, non tratto programmazione. Uno, perché io il VBA non lo conosco particolarmente bene e soprattutto non mi piace, perché io programmo in Python, programmo in Bash, programmo tutta una serie di linguaggi che non... Sì. Linux. Perché a me non piace il mondo Microsoft di Linux. Il sistema operativo, Bash è il... E due, perché sarebbe un corso particolarmente tecnico e se... riuscissi a racimolare, tra virgolette, 2 utenti sarebbero tanti, che va abbastanza in controtendenza alla politica dell'università popolare. Quindi io farò Excel, per chi ha già fatto Excel e volesse ripeterlo, ben venga, perché mi dice no, vabbè, io da informatica ormai ho finito il ciclo, più di questo non si fa. Ok. Quindi schiaccio il simbolo di totale e vedete che appare una riga aggiuntiva, che è la riga formula. E vedete che lo rischiaccio, guardate solo un secondo, e la riga formula scompare. Se lo schiaccio appare questa riga in più, che si chiama formula, e vedete che cliccandoci sopra appaiono una serie di voci, tra le quali, ah sì, mi sono dimenticato prima min e max, che effettivamente talvolta possono essere utili, però appaiono le voci raggruppamento, somma, media, min, max e conteggio. Ecco, importante anche il dove, perché il dove mi permette di mettere delle condizioni. Sì, quello che abbiamo fatto nelle query semplici sostanzialmente. Ma questo poi lo approfondiamo la prossima settimana. Adesso volevo giusto farvi iniziare a vedere una prima query. Allora, in base a quello che abbiamo visto prima, dovrebbe essere chiaro il concetto del raggruppamento. Cioè, io prima vi ho detto, se faccio una query di raggruppamento dove sommo la colonna prezzo, quindi senza fare alcun raggruppamento, sostanzialmente avrei la somma, cioè lui in realtà raggruppa tutto e quindi fica tutto dentro un unico contenitore. Se raggruppassi per colore, mi prenderebbe tutti i rossi, tutti i blu, tutti i verdi e mi farebbe la somma di ciascuno di essi. Quindi, se io quindi tolgo il genere, togliessi il genere, e andassi a fare una somma, ad esempio, o una durata media, forse ha più senso, no? Una durata media, lui mi prenderebbe tutti i film di tutti i generi e mi va a fare una durata media, ok? che sono 116 minuti. D'accordo? Se io gli andassi a mettere il genere e lo raggruppo per genere, lui mi dice, guarda che per ciascun genere la durata media è questa. Se è chiaro che mano a mano che gli vado a mettere dei campi in più, prego, è chiaro che i raggruppamenti saranno sempre maggiori, però si aumenta la base dati. Quindi se io gli vado a dire raggruppa per anno e raggruppa per genere, lui mi prende tutti quelli che non hanno anno, e poi per ciascun anno, guardate qua ad esempio, 1965 mi prende commedia e western e mi dice qual è la durata media. È chiaro, signori, questo discorso? Laura? Non so se sia altrettanto chiaro che invertendo i campi raggrupperà in questo caso prima per genere e poi per anno. Quindi mi dice il genere avventura, per la media dell'anno 75, 80, 83, bla bla bla, e mi dice a fianco la media. Cioè, mentre prima raggruppava per anno e per genere, adesso raggruppa per genere e per anno. D'accordo? Quindi queste query sostanzialmente mi permettono di fare ciò che facemmo nelle tabelle pivot di Excel 2 anni fa. Chi di voi seguì con me il corso di Excel 2 anni fa? 2 anni fa facemmo le tabelle pivot e se vi ricordate nelle tabelle pivot dicemmo per ogni A voglio sapere C. Ebbene, è proprio quello che succede qua. Cioè io raggruppo per campi, in questo caso per genere e per anno, e vado a calcolare una durata media, una somma, un conteggio. Ecco, se io invece della media della durata volessi sapere, ad esempio, quante ce ne sono, quanti film, quante cassette, quanti film ho, al posto della media dovrei andargli a dire il conteggio. E lui mi dice per ciascuno di questi quanti film ho. Chiaro che qua si fa un po' sentire il problema dell'anno. Ecco. D'accordo? Laura? Queste sono query in generale utili di per sé, perché mi danno già un'idea di insieme, eccetera, eccetera. Ma poi vedremo che possono essere infilate in query di query che mi permettono di fare dei calcoli. No, nelle relazioni di query delle query. Join, trick e ballack. Perché banalmente, allora innanzitutto fin qua ci siamo, provate a fate una prova a casa di questa tipologia di query. Prendete proprio una tabella semplicissima, cioè un ID contatore con i colori e i prezzi come abbiamo visto adesso, e provate queste query di, son piuttosto semplici come query, non è che... Però dov'è che sta la potenza di queste query? Sta nel fatto che possono essere riutilizzate in altre tipologie. Cioè, se io poi un domani avessi il film numero 1 di avventura, ok? Con la sua durata, quindi film 1, genere avventura, durata 70 minuti. Se mi chiedo qual è lo scostamento della durata di questo film con la durata media dei film d'avventura, dovrei mettere in join questa query con i singoli film. In questa maniera avrei una durata media che per l'avventura sono 130 minuti, e a quel punto posso fare una query calcolata che mi va a fare 130 meno 70, che sono 1460, la differenza. Funzione format. Si può usare qua, ma non è. Sì, per eliminare tutti quei decimali. Esatto. Però il concetto fondamentale è questa query, che di per sé, ripeto, è relativamente semplice, perché vedete che non è nient'altro che una query come l'abbiamo già vista in precedenza, dove vado a fare un raggruppamentino. L'accortezza che dovete avere è di andare a mettere il meno campi possibili e soprattutto non dei campi univoci. Perché se voi mi raggruppate per chiave primaria, e lui la chiave primaria è univoca, per cui vi prende tanti record quante sono le chiavi primarie, quindi è come se non l'avesse fatta l'accoppiamento, no? Ma una volta che voi fate la querina è relativamente semplice. Può essere utile, ripeto, per andare a metterle in join, come si dice, quindi a unirle con altre query o altre tabelle. Però io mi focalizzerei nel provate questa cosa qua a casa. Nella prossima lezione iniziamo ad introdurre le query di calcolo per colonna. Per colonna? Sì, su colonne diverse, quindi per riga. E a quel punto sostanzialmente come argomenti ho abbastanza esaurito gli argomenti del corso in sé. Perché abbiamo fatto le tabelle con tutto quello che c'era da dire possibile e immaginabile. La progettazione del database, le maschere, i report li abbiamo un pochino rivisti la volta scorsa, le query semplici, le query di calcolo in colonna, le query di calcolo in riga, chiaro che nelle query di calcolo in riga andiamo a vedere anche un po' di funzioni, eccetera, eccetera, però voglio dire, gli argomenti alla fine di ACE sono questi, quello che poi ci rimane da fare per i prossimi mesi è esercitarsi. Quindi riprenderemo il modello fra due o tre lezioni, che finiamo le query di calcolo per riga, riprenderemo il modello delle piante e inizieremo a dire ok, adesso sviluppiamo il modello piante. Riprenderemo il modello, no, ospedali no. Faremo un altro esercizio con un altro modello e diremo ok, adesso sviluppiamo l'altro modello. Però a quel punto, signori, da parte vostra ci dovrebbe essere una reattività decisamente forte. Perché il concetto sarà, io vi propongo un esercizio, in una lezione proviamo a risolverlo dal punto di vista del modello e nelle due o tre lezioni successive voi andate a costruire quel modello e ci si confronta sulle maschere, sui report, su questo e sull'altro. Però è chiaro che a quel punto ci vuole veramente una reattività da parte vostra forte. Ok? Signori, buon fine settimana. Ci vediamo venerdì prossimo.